In quale ambizione definitiva si erano ora condensate tutte le ambizioni concorrenti e consecutive? Non ereditare per diritto di primogenitura, divisione in parti uguali tra gli eredi o privilegio dell'ultimo nato, né possedere in perpetuità un esteso territorio di un notevole numero di acri, pertiche e braccia, misura agraria legale, stimata 42 sterline. Di torbiere da pascolo attorno a una sede baronale con residenza del portiere e viale d'accesso, né, d'altra parte, una costruzione all'italiana o villa semi-indipendente, detta Rus in urbe o qui si sana, bensì acquistare per contratto privato in proprietà senza obbligo di trasmissione una casa d'abitazione con tetto impagliato a bungalow a due piani, esposta a meridione, con sopra banderuola e parafulmine collegato alla terra, con portico ricoperto di piante parassitarie, edera o vita americana, porta d'ingresso verde oliva, con rifinitura a carrozzeria e ottoni lucidi, facciata in stucco con modanature dorate alle gronde e frontone, e sita, se possibile, su un dolce declivio, con bella visuale da una terrazza con balaustra a pilastrini di pietra, su pascoli intergiacenti, non sfruttati e non sfruttabili, elevantesi su 5 o 6 acri di terreno proprio, a distanza tale dalla carrozzabile più vicina da rendere visibili di notte le finestre illuminate al di sopra e attraverso una siepe viva di carpini, tagliata a regola di topiario, sita a un dato punto, a non meno di 1 miglio legale dalla periferia della metropoli, entro un limite di tempo di non più di 5 minuti dalla linea del tram o del treno. Per esempio, Dundrum a sud o Sutton a nord, due località ugualmente dimostrate empiricamente simili ai poli terrestri, in quanto climi favorevoli agli affetti da tubercolosi. Lo stabile da essere tenuto a enfiteusi, contratto di 999 anni. La casa e le dipendenze consistenti in un salotto con finestra a bovindo, ogive a doppio arco, termometro annesso, un salotto, 4 camere da letto, 2 stanze per la servitù, cucina a mattonelle con forno e dispensa, ingresso con armadi della biancheria a muro, libreria a scaffali aperti, in quercia scura, contenente l'Enciclopedia Britannica e il New Century Dictionary. Panoplie di armi antiche medievali e orientali. Gong, lampadario concavo d'alabastro, sospeso. Ricevitore di telefono automatico di gomma vulcanizzata con guida adiacente. Tappeto Exminster di lana trapunta a mano con fondo color crema e bordo a traliccio. Tavolino da gioco con gamba centrale e pieducci artigliati. Caminetto con implementi in ottone massiccio e un orologio a cronometro di bronzo dorato sul caminetto, garantito con carillon da cattedrale. Barometro con carta igrografica. Comodi divani anche angolari, foderati di felpa color rubino, ben molleggiati e col centro affondato. Un paravento giapponese a 3 pannelli e sputacchiere, stile da club. Cuoio lucido rosso vino da potersi rilucidare con un minimo di fatica usando olio di lino e aceto. E una lumiera centrale piramidalmente prismatica. Pertica di legno curvo con pappagallo domestico da tener sul dito. Eloquio espurgato. Carta da parati in rilievo a 10 scellini la dozzina con motivo trasversale di disegni floreali color carnicino e fregio in alto. Scala. 3 rampe ad angoli retti successivi di quercia verniciata in fondo chiaro, pedata e alzata, colonna neutrale, balaustre e appoggiatoio con rivestimento a pannelli, trattato con cera canforata. Bagno, acqua corrente fredda e calda, vasca e doccia, gabinetto a mezzanino, fornito di una finestra opaca oblunga a vetro unico. Sedile ribaltabile, lampada a muro, maniglia e catena dello sciacquone di ottone. Braccioli, panchetto poggiapiedi e oleografia artistica sul pannello interno della porta. Idem, semplice, stanze della servitù con accessori sanitari e igienici separati per la cuoca, la cameriera tuttofare e l'aiuto. Salario con scatti biennali non guadagnati di 2 sterline, con gratifica annuale comprensiva di assicurazione di fedeltà di 1 sterlina. e pensione, basata sul sistema dei 65 anni dopo 30 anni di servizio, retrocucina, celliere, dispensa, ghiacciaia, dipendenze, cantine per carbone e legna e vino imbottigliato, spumante e non spumante, per ospiti di riguardo, se invitati a pranzo, abito da sera, illuminazione completa a gas monossido di carbonio. Quali attrazioni aggiuntive poteva contenere la proprietà? Come addendi, un campo da tennis e da pallamaglio, un vivaio di arbusti, una serra estiva con palme tropicali, attrezzata il meglio possibile dal punto di vista botanico, una grotta a pietruzze e conchiglie con getto d'acqua, un alveare basato su principi d'umanità, aiuole ovali su prati rettangolari, con ellissi eccentriche di tulipani rossi e gialli, scille azzurre, crochi, polianti, dianti, fior di piselli odorosi, mughetti. Per i bulbi rivolgersi a Sir James W. Mackay, RSL, all'ingrosso e al minuto, semi, bulbi, semenzai, rappresentanti di concimi chimici, 23 Sackville Street Superiore. Un frutteto, orto e vigna protetti dagli intrusi mediante cinte murarie sormontate da cocci di vetro. Capannone di sgombero con lucchetto per vari arnesi inventariati. Ad esempio, trappoli d'anguille, nasse d'aragoste, canne da pesca, accetta, bilancia, mola, mazzuolo, affastellatrice, scaldapiedi, scala retrattile, rastrello a 10 denti, zoccoli di legno, forca da fieno, tridente, roncola, vaso di vernice, pennello, zappa e così via. Quali migliorie si sarebbero potute apportare in seguito? Una conigliera e un pollaio, una colombaia, una serra botanica, due amache da uomo e da donna, una meridiana riparata all'ombra di citisi e lillà, un campanello giapponese esoticamente e armonicamente accordato, affisso allo stipite laterale sinistro della porta d'ingresso, un capace serbatoio d'acqua. Una falciatrice a scarico laterale e cassa di raccolta, un'innaffiatrice con tubo idraulico. Quali mezzi di locomozione erano desiderabili? Se per andare in città, frequenti collegamenti ferroviari o tranviari rispettivamente da stazione intermedia o da capolinea. Se per andare in campagna, un velocipede, un ciclo senza catena a ruota libera con carrozzino annesso o un veicolo a trazione animale. Asinello con carrozzella di vimini oppure un elegante phaeton con cavallino, buon trottatore e solidungolo, castrato roano 14 palmi d'altezza. Quale potrebbe essere il nome di questa residenza eretta o erigenda? Bloom Cottage, San Leopoldo, Flowerville. Il Bloom di Eccles Street 7 prevedeva il Bloom di Flowerville? In ampi abiti di pura lana con berretto di Harris Tweed, prezzo 8 scellini e 6 pence, e opportune scarpe da giardinaggio con gheroni elastici e annaffiatoio, in atto di piantare l'uno accanto all'altro giovani abeti, spruzzare, potare, puntellare, seminare erbetta, spingere una carriola piena di erbacce senza eccessiva fatica, al tramonto, in mezzo al profumo di fieno falciato di fresco. Migliorando il terreno, moltiplicando la propria saggezza, raggiungendo la longevità. Quale programma di occupazioni intellettuali era simultaneamente possibile? Fotografia istantanea, studio comparato delle religioni, folklore relativo a varie pratiche amatorie di superstizione, contemplazione delle costellazioni celesti. Quali ricreazioni più leggere? All'aperto, giardinaggio e lavoro dei campi, ciclismo in piano su strade asfaltate, ascensioni di pendii collinosi di modesta altezza, nuoto in acqua dolce e in luogo isolato, e canottaggio tranquillo in un sandolino sicuro o una barchetta leggera con ancorotto, in bracci d'acqua liberi da sbarramenti e rapide, periodo estivo, deambulazioni vespertine o circumprocessione equestre con ispezione di paesaggio sterile e, gradevoli per il contrasto, fuochi nei casolari dei contadini di fumosi blocchi di torba, periodo invernale. Al chiuso, Discussione in tiepida sicurezza intorno a problemi storici e criminali non risolti. Letture di capolavori esotico-erotici non espurgati. Lavori di falegnameria domestica, con cassetta degli attrezzi, contenente martello, punteruolo, chiodi, viti, bullette, succhiello, tenaglie, pialla e cacciavite. Sarebbe diventato un signorotto di campagna, produttore e allevatore? Non impossibilmente, con una o due mucche da mungere sino all'ultima goccia di latte, un pagliaio di fieno di monte e i necessari strumenti per lo sfruttamento, per esempio una zangola orizzontale, un macinatore di rape, eccetera. Quali sarebbero state le sue funzioni civili e la condizione sociale fra le famiglie della contea e l'alta borghesia terriera? Successivamente disposte, secondo i gradi ascendenti dell'ordine gerarchico, quella di giardiniere, orticoltore, coltivatore, allevatore e allo zenit della sua carriera, magistrato locale o giudice di pace con blasone familiare e motto classico appropriato. Semper Paratus, debitamente registrato nell'annuario di corte. Blum, Leopold P., MP, PC, KP, LLD, honoris causa. Blumville, Dundrum, e nominato nella rubrica mondana dei giornali. Il signore e la signora Blum hanno lasciato Kingstown diretti in Inghilterra. Quale linea di condotta tracciava egli per sé in tale capacità? Una linea che stava a mezza strada tra la clemenza indebita e l'eccessivo rigore. Il dispensare, in una società eterogenea, suddivisa in classi arbitrarie, incessantemente fluttuanti nei termini di una maggiore o minore disuguaglianza sociale, una giustizia incontrastata, omogenea, indiscutibile, mitigata dai temperamenti di una larghezza la più ampia possibile, ma operante fino all'ultimo centesimo, compresa la confisca dei beni mobili e immobili a pro della corona. Fedele al massimo potere costituito dello Stato, animato da un amore innato della rettitudine, suoi scopi sarebbero stati il rigoroso mantenimento dell'ordine pubblico, la repressione di molti abusi, benché non di tutti simultaneamente, essendo ogni misura di riforma o di restrizione una soluzione preliminare destinata a confluire nella soluzione finale. La difesa della lettera della legge, diritto comune, atti di parlamento, diritto commerciale, contro ogni denegatore in collusione e ogni contravventore che violasse regolamenti e ordinanze, contro chi resuscitasse, per sconfinamenti e furti minimi di fuscelli, i diritti feudali sulle foreste, caduti ormai da tempo in prescrizione, contro chi demagogicamente istigasse alla persecuzione internazionale, contro chi perpetuasse animosità internazionali, contro tutti i disturbatori servili della convivialità domestica, contro tutti i violatori recidivi della coniugalità domestica. Provare che egli aveva amato la rettitudine fin dalla prima giovinezza. Al signorino Percy Upjohn, alle scuole superiori nel 1880, aveva palesato la sua incredulità nelle dottrine della Chiesa protestante irlandese, a cui suo padre Rudolf Virag, poi Rudolf Blum, era stato convertito dalla fede e confessione israelitica nel 1865 dalla Società per la diffusione della fede cristiana tra gli ebrei, susseguentemente da lui abiurata in favore del cattolicesimo romano al tempo del e per facilitare il suo matrimonio nel 1888. A Daniel McGrane e Francis Wade nel 1882, ai tempi di un'amicizia giovanile terminata con la prematura emigrazione del primo, aveva caldeggiato, durante notturne deambulazioni, la teoria politica dell'espansione coloniale, per esempio canadese, e le teorie evoluzionistiche di Charles Darwin, esposte nelle Origini dell'uomo e nell'Origine della specie. Nel 1885 aveva pubblicamente espresso la sua adesione al programma economico, collettivo e nazionale caldeggiato da James Finchell Lollar, John Fisher Murray, John Mitchell, J.F.X. O'Brien e altri, alla politica agraria di Michael DeWitt, all'agitazione costituzionale di Charles Stuart Parnell, deputato della città di Cork, al programma di pace, restrizioni e riforma di William Joas Gladstone, deputato di Midlothian, Inghilterra del Nord, e a conforto delle proprie opinioni politiche, si era arrampicato in una posizione sicura tra i rami di un albero in Northumberland Road per vedere l'ingresso, 2 febbraio 1888, nella capitale di un corteo con fiaccolata di 20.000 dimostranti, divisi in 120 sindacati, con 2.000 torce di scorta al marchese di Ripon e l'onesto John Molly.